Dorina e la visita della strega. Dorina è una strega, anzi una streghina. Il suo cappello è sempre storto e i suoi calzettoni spaiati. Vive con sua madre, la grande strega, con la cuoca e con Jink, il suo gatto nero. Stanno in una casa alta e spettrale. In cima a una torre c'è la camera segreta, dove la grande strega prepara le sue miscure magiche. Un giorno Dorina sentì un gran baccano al pian terreno. La grande strega e la cuoca litigavano. Le porte sbattevano. Vieni, Jink, andiamo a vedere che sta succedendo, disse Dorina. Scesero in cucina e trovarono la grande strega che squadrava con rabbia la cuoca, che tutta imbronciata agitava una pentola. Ma io non lo sapevo che fosse finita. Ero occupata a cucinare le torte. Che è successo? Chiese Dorina. La grande strega si sedette al tavolo. Devi sapere che proprio oggi la stupefacente Magda viene a Stregalandia in visita ufficiale. Fa il giro dei paesi per dare un premio al migliore e, come sai, noi finora non abbiamo mai vinto. Verrà a prendere il tè da noi. Oh, che bellezza! Esclamò Dorina. Bellezza? La casa è terribilmente in disordine. Gli ospiti saranno qui fra un'ora e non abbiamo nemmeno una goccia di cera per lucidare i pavimenti. «Ma ho già detto che non sapevo che fosse finita!» gridò la cuoca. «Non potresti fare una cera magica?» chiese Dorina alla madre. La grande strega fissò Dorina e disse: «Hai ragione, ho bisogno del tuo aiuto!» La grande strega e Dorina, seguite da Jink, salirono sulla torre. La grande strega spinse con furia la porta scricchiolante. «Prepara il calderone, Dorina, mentre io cerco la ricetta!» Eccola! Se all'incantesimo per la cera aggiungo un pizzico di tornado, il salotto splenderà come oro. Dorina si grattò la testa. Sei sicura che sia una buona idea metterci il tornado? Non si sa mai cosa può succedere con quell'ingrediente strano. So benissimo quel che faccio. Ce ne metterò una goccia appena. Giusto quel che ci vuole per far andar via le ragnatele dal soffitto. Presto, dammi quella caraffa di cristalli blu e quella bottiglia di roba gialla. Lentamente, scintille colorate e vapore cominciarono a sollevarsi dal calderone. Dorina e la grande strega mescolavano e rimescolavano. La grande strega guardò l'orologio. Oh! Mancano pochi minuti. Stai indietro, Dorina. La grande strega rimescolava in tondo, prima a sinistra e poi a destra. Le sue maniche nere fluttuavano come ali. Borbottava e canterellava. All'improvviso si fermò, chiuse gli occhi e recitò: 10-4 il salotto è fatto. Lucida e brilla, lucida e brilla, con lo splendore di una scintilla. Abracadabra, abracadabra. Lentamente le scintille e il vapore ricaddero nel calderone. Dorina, io devo correre a vestirmi. Tu rimani qui e rigira finché i colori impallidiscono. Poi vai a metterti un vestito pulito e calzini uguali. Poi, quando sei pronta, vieni in salotto a conoscere la stupefacente Magda. Con uno svolazzo della sua gonna nera, corse via per le scale. Dorina gettò un'occhiata nel calderone, pensando che adorava cucinare e adorava gli incantesimi. Cominciò a mescolare a sinistra e poi a destra. «Arriva gente!» Corse alla finestra e guardò fuori. «Ecco la stupefacente Magda sulla sua scopa d'argento! Sembra piuttosto feroce. Sfido io che la mamma era preoccupata!» Seguita da Jink, andò in camera sua. Notare che un soffio di tornado sia entrato anche qui, commentò fra sé. Jink saltò sul letto e lei si sedette per togliersi un calzino. Ma il calzino non veniva via. Si sedette sul pavimento e tirò più forte. Ma il calzino non si muoveva. Provò con l'altro calzino. Stesso risultato. Oh! Poi provò a togliersi il vestito. Tirò, fece forza. Non si muoveva. Siamo nei guai, Jink! Scesero le scale. Un fitto parlottio proveniva dal salotto e si sentiva la grande strega ridere. La cuoca si dava un gran da fare con il carrello del tè. Dorina sporse dentro la testa. Mamma! Sussurrò. La grande strega stava parlando con la stupefacente Magda, sorridendo e agitando le mani. Ma Magda aveva un aspetto tremendamente annoiato. Mamma! Gridò Dorina di nuovo. Ti prego, vieni qui un momento! La grande strega sospinse Dorina nell'ingresso. Ma ti sembra il modo di interrompermi quando ho degli ospiti così importanti? E guardati, vai su a metterti in ordine immediatamente! Non posso! Strillò Dorina. Ho i calzini e il vestito incollati addosso! C'è qualcosa in quella tua magia che incolla! La grande strega impallidì. Incolla? Incolla? Vuoi dire... Dorina annuì e indicò il salotto. La cuoca stava tentando di posare il vassoio del tè senza riuscirci. Era incollato alle mani. La grande strega boccheggiò e si accasciò sulla seggiola dell'ingresso. No, mamma, no, non sederti! Troppo tardi. Oh! Gridò la grande strega balzando in piedi. La sedia balzò su con lei. La cuoca faceva girare il vassoio incollato alle sue mani e gli ospiti dovevano servirsi da soli. Tutte le streghe e gli stregoni si gettavano l'un l'altro delle strane occhiate. Tutti eccetto Magda. La stupefacente Magda sbadigliava e basta. La grande strega sospirò. Jink andò a strofinarsi contro la gamba di Dorina. No, Jink, no! Gridò Dorina. Ma era troppo tardi. Jink rimase attaccato ai suoi calzini. La grande strega rientrò in salotto. Sfoderò il suo miglior sorriso di circostanza e batté le mani. E ora la grande sorpresa. Il nostro grande giro di Stregalandia. Faremo volare i nostri distinti ospiti intorno alla nostra piccola, splendida città. Proprio una sorpresa, sospirò la stupefacente Magda. Oggi questo è il mio quinto tè e il mio quinto giro volante, seguito immagino dal quinto spettacolo di fuochi artificiali, disse la stupefacente Magda. Quando le streghe e gli stregoni cominciarono ad alzarsi, le loro sedie si alzarono con loro. Una delle più grandi e più belle poltrone era incollata alla stupefacente Magda, la quale guardò la poltrona. Guardò tutte le altre streghe e stregoni incollati alle loro seggiole. Guardò Dorina con Jink incollato alle gambe. E la stupefacente Magda cominciò a sorridere. Poi cominciò a ridere. Grande strega, questa sì che è una sorpresa! Una piacevolissima sorpresa! Immaginate poter volare seduta comodamente in poltrona! Vogliamo andare? Uno ad uno, streghe e stregoni sfilarono nell'ingresso e fuori dalla porta, incollati alle loro sedie. Posso venire anch'io con Jink? Chiese Dorina. Ma naturalmente, vai a prendere uno sgabello, viaggerai vicino a me. A proposito, ho visto dei palloni nell'ingresso, prendi anche quelli, gridò la stupefacente Magda. Dorina dette un pallone a tutti e poi si sedette sul suo sgabello. E tutti volarono sopra Stregalandia. Fu un viaggio magnifico. Quando tornarono, la stupefacente Magda, la grande strega e Dorina prepararono un altro calderone di incantesimo. E una per una le sedie e le poltrone si staccarono. Jink si scrollò dal calzino di Dorina e la cuoca fece cadere il vassoio del tè sul pavimento. La stupefacente Magda dette alla città di Stregalandia una grossa coppa d'argento su cui c'era inciso «Stregalandia, città delle sorprese». E quella sera tutti andarono a dormire con i palloni legati in fondo al letto e con un gran sorriso sul viso.